Sì, è una scelta che abbiamo assunto insieme ai compagni e colleghi dell'IGmetall di Wolfsburg e di Ingolstadt, perché vedevamo già nei mesi scorsi l'avanzare dei populismi di destra in Germania, lì sotto la sigla di Alternative for Deutschland, e in Italia soprattutto con questa nuova Lega, che non è più Nord ma è un partito che guarda espressamente all'estrema destra europea. Tra l'altro l'IGmetall e la fondazione Friedrich Ebert, che è partner del convegno, ha analizzato anche le sfide e i rischi dell'avanzare dei populismi di destra per il sindacato in Germania, e quindi la contaminazione degli iscritti attivisti dell'IGmetall rispetto a parole d'ordine della destra, come Fion di Bologna insieme alla Fion regionale. Ci interroghiamo anche sulla difficoltà dei valori tradizionali del movimento operaio, come la solidarietà, l'uguaglianza, il valore del lavoro come sancito dall'articolo 1 della Costituzione, la loro messa in discussione di fronte anche alla crisi della sinistra e di quei partiti che si sono sempre richiamati al socialismo in Europa, davanti anche al fatto che abbiamo una classe operaia e un proletariato dei servizi che rischia di guardare con attenzione alla destra populista e xenofoba, di fronte al fatto che abbiamo una classe operaia sempre più divisa tra una parte di operai tecnici che magari lavorano nelle grandi aziende bolognesi, tedesche, in Audi, nelle aziende del packaging, quindi una sorta di classe operaia di tecnici dell'industria 4.0, ma contemporaneamente una classe operaia più tradizionale, più fordista, che invece ha subito i colpi duri della crisi, spaventata, timorosa per il futuro, preoccupata di quello che per lei è stata la globalizzazione. E quindi ci interessa partire da casi nazionali diversi, con delle similitudini, Italia, Germania, Francia, Spagna. Abbiamo invitato i compagni delle commissioni Sobreras perché il populismo di Podemos, come interroga il sindacato spagnolo, visto che arriva Podemos in realtà a valle di imponenti mobilitazioni della società civile, dei movimenti, quindi in un contesto molto differente dalla destra xenofoba europea. Quindi sotto l'improprio titolo di populismi stanno esperienze in Europa molto diverse tra di loro, accomunate magari da alcuni elementi comuni che ci interessa indagare da un punto di vista specifico, come il populismo interroga il sindacato. Allora ne approfitto per farti una domanda proprio su uno di questi paralleli, visto che coorganizzate insieme all'IGmetall, e i metalmeccanici tedeschi recentemente hanno appena avuto una vittoria, insomma, per quanto riguarda la riduzione dell'orario di lavoro per motivi familiari. La domanda che invece riguarda il nostro paese è: che cosa c'è di diverso? È anche l'atteggiamento dei partiti non populisti, in particolare mi riferisco al centro-sinistra quando è al governo? Intanto io sono d'accordo con Marco Revelli quando dice che le politiche del governo Renzi erano una forma di populismo, un populismo di governo, un populismo dall'alto, che vedo in continuità con il populismo televisivo, sempre per usare l'espressione di Revelli, di Berlusconi, e il cyberpopulismo del Movimento 5 Stelle. È chiaro che le politiche della cosiddetta terza via del centro-sinistra italiano ed europeo, pensiamo alla sparizione praticamente del Partito Socialista francese, dalla crisi molto forte dell'SPD in Germania, dalla crisi del Partito Socialista spagnolo, dal disastro delle recenti elezioni della sinistra globalmente intesa in Italia, PD, LeU, Potere al Popolo, cioè tutte formazioni che non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, io le leggo anche sul fatto che i lavoratori, e che quindi dovevano essere i destinatari tradizionali dei partiti della sinistra, si sono sentiti in qualche modo traditi dalle politiche del centro-sinistra, che da partire dagli anni 90 hanno somministrato dosi massicce di precarizzazione, flessibilizzazione, contenimento dei salari, e l'idea d'Europa che è stata affermata è un'Europa che forse va bene per una classe dirigente globale, forse per chi sta ancora nei centri dei flussi della globalizzazione, i grandi centri urbani, ma che ha lasciato ampi margini di ampie periferie, di dissenso, di critica, di anche di solitudine. Vedo una necessità intanto di non fare sovrapposizioni indebite, nel senso che questa crisi dei partiti della sinistra, io penso, debba interrogare il sindacato, perché noi dobbiamo ripartire dai valori fondamentali del movimento operaio. La solidarietà, l'uguaglianza, la giustizia sociale, oggi sono valori importanti come lo erano 100 anni fa, in un momento momenti in cui aumentano i poveri al lavoro, aumenta il bisogno di sindacato per tante fasce della popolazione, noi abbiamo bisogno di cambiare noi stessi, di partire anche da concetti di radicalità democratica per fare fronte alle sfide del cambiamento del nostro tempo. In Germania c'è stata una grande vittoria politica dell'Inge Metall, che ha sfidato l'impresa delle esportazioni, il cuore dell'industria europea, sfidandoli sulla possibilità di ridurre l'orario. E hanno vinto. Un accordo che però, dal mio punto di vista, è molto importante, da un lato sull'aumento salariale, è importante perché affermano il diritto dei lavoratori di fare i part-time e introducono, secondo me, l'elemento di maggiore novità di questa tornata contrattuale, una mensilità aggiuntiva che pare in realtà al 27,5% della paga del mese del lavoratore, e il singolo lavoratore può decidere se avere i soldi, quindi quel 27,5% di stipendio, o di trasformare quella somma in 8 giorni di ferie. Quindi assegna il diritto, loro lo chiamano dell'autodeterminazione dell'orario, cioè il diritto del lavoratore di scegliere fra più tempo libero o più salario. Io penso che questo sia quella vittoria politica che tu chiamavi, perché si decide che si assegna al lavoratore il diritto, che però non è il fatto che anche lavoratori metalmeccanici, che sono i meglio pagati d'Europa, queste condizioni contrattuali ed economiche sono state un argine rispetto all'avanzata della destra e della destra populista in Germania, perché anche nelle grandi città operaie, penso a Wolfsburg, Alternative for Deutschland cresce e cresce molto. Quindi c'è qualcosa di più profondo che tocca la base valoriale, non è solo il fatto che le periferie povere votano destra, anche cioè, una classe operaia smarrita che ha bisogno di parole d'ordine chiave, di valori forti.